Emma. Tredicesima traccia. Il primo e peggior errore era imputabile a lei. Era una sciocchezza, era un vero e proprio torto prendere una parte così attiva nel cercare di affiatare così due persone. Era un avventurarsi troppo oltre, un presumere troppo, un prendere alla leggera ciò che doveva essere serio, un fare un gioco d'astuzia di ciò che doveva essere semplice. Emma era molto preoccupata e umiliata e decise di non impicciarsi più di tale faccende. «Ecco qua», diceva, «che a forza di discorsi ho convinto la povera Harriet ad affezionarsi parecchio a quest'uomo. Non fosse stato per me, forse non avrebbe mai pensato a lui, e certo non avrebbe mai fondato alcuna speranza su di lui se io non l'avessi assicurata del suo attaccamento, poiché essa possiede la modestia e l'umiltà che io solevo attribuire a lui. Oh, se mi fossi limitata a persuaderla a non accettare il giovane Martin. Su questo punto io avevo pienamente ragione. Qui ho agito bene, ma lì mi sarei dovuta fermare e avrei dovuto lasciare il resto al tempo e al caso. Io la presentavo nella buona società e le davo l'opportunità di piacere a qualcuno degno d'essere conquistato. Non avrei dovuto tentare di più. Ma ora, povera ragazza, la sua pace è rovinata per qualche tempo. Non sono stata per lei una vera amica, e se essa non dovesse sentire profondamente questa delusione, io non saprei davvero che altri potrebbe essere un partito desiderabile per lei. William Cox. Ah no, io non potrei tollerare William Cox, un giovane avvocato insolente. Si fermò per arrossire e ridere della sua ricaduta. E poi riprese a riflettere in modo più serio e deprimente su quel che era stato e che poteva essere e che doveva essere. La dolorosa spiegazione che essa doveva dare a Harriet e tutto quel che avrebbe sofferto la povera Harriet, insieme con l'imbarazzo degli incontri futuri, le difficoltà di continuare o di portarmene i rapporti, di domare i sentimenti, di nascondere i risentimenti, ed evitare lo scandalo, bastarono a tenerla occupata in tristissime riflessioni per un altro po' di tempo. E alla fine si coricò senza essere giunta a nessuna conclusione, se non al convincimento d'aver preso un terribile abbaglio. A una giovinezza e a una naturale gaiezza come quelle di Emma, sebbene soffrano un temporaneo offuscamento la notte, il ritorno della luce non può mancare di portare un ritorno di vivacità. La giovinezza e la gaiezza del mattino offrono una felice analogia e operano in modo possente. E se l'infelicità non è così acuta da far tenere gli occhi aperti, sicuramente condurranno a sensazioni di mitigata pena e di più viva speranza. Emma s'alzò la mattina più disposta a consolarsi di quanto si era coricata, più pronta a vedere alleviamenti del male che doveva affrontare e a confidare di uscirne in modo tollerabile. Era un gran conforto che Mr. Elton non fosse davvero innamorato di lei o così particolarmente amabile da rendere penoso il deluderlo. Che l'indole di Harriet non fosse di quella specie superiore in cui i sentimenti sono acutissimi e vivacissimi e che non ci fosse bisogno che alcuno venisse a sapere quel che era accaduto, eccetto le tre persone interessate, e specialmente che suo padre dovesse soffrirne un momento di inquietudine. Questi erano pensieri assai confortanti, e la vista d'un bel po' di neve per terra le apportò un altro sollievo, che benvenuta era ogni cosa che potesse giustificare la separazione di loro tre per il momento. Il tempo era favorevolissimo a lei. Sebbene fosse Natale, ella non poteva recarsi in chiesa. Mr. Woodhouse si sarebbe sentito molto infelice se sua figlia l'avesse tentato, cosicché essa era salvaguardata dal provocare o dal ricevere idee spiacevoli e non confacenti. Il suolo coperto di neve e l'atmosfera in quello stato incerto tra il gelo e il disgelo che tra tutti è il meno propizio al movimento, ogni mattina iniziandosi con pioggia o neve e ogni sera disponendosi a gelare, fecero sì che per molti giorni essa rimase in un'onorevolissima prigionia. Nessun rapporto possibile con Harriet se non per missiva, niente chiesa per lei la domenica più che il giorno di Natale e nessun bisogno di trovare scusa per l'assentarsi di Mr. Elton. Era un tempo che avrebbe potuto plausibilmente costringere chiunque a restare in casa, e sebbene essa sperasse e credesse che egli davvero trovasse conforto in qualche compagnia, era molto piacevole avere suo padre così contento di essere solo a casa sua, troppo cauto per mettere il naso fuori e udirlo dire a Mr. Knightley che nessuna specie di tempo poteva tenere completamente lontano da loro. «Ah, Mr. Knightley, perché non restate a casa come il povero Mr. Elton?» Questi giorni di forzata reclusione, se non ci fossero state le sue private perplessità, potevano essere assai confortevoli, poiché tale appartarsi si confaceva a meraviglia a suo cognato, i cui sentimenti dovevano essere sempre molto importanti per i suoi compagni. Ed egli aveva, inoltre, così completamente eliminato il suo cattivo umore di Randalls che la sua amabilità non venne mai meno durante il resto del suo soggiorno a Hartfield. Egli era sempre piacevole e cortese e parlava affabilmente di tutti, ma con tutte le speranze di gaiezza e tutto il conforto presente dell'indugio, era tuttavia così sospeso su di lei quel temibile momento della spiegazione con Harriet, che riusciva impossibile ad Emma d'aver l'animo in pace. Mr. e Mrs. John Knightley non furono trattenuti a lungo a Hartfield. Il tempo migliorò presto, abbastanza da permettere di partire a quelli che dovevano partire. E Mr. Woodhouse, dopo aver, secondo il solito, cercato di persuadere sua figlia a rimanere con tutti i bambini, fu obbligato a vedere andar via tutta la comitiva e a tornare alle sue lamentazioni sul destino della povera Isabella. La quale povera Isabella, che passava la sua vita con coloro di cui era infatuata, piena dei loro meriti, cieca ai loro difetti e sempre innocentemente affaccendata, avrebbe potuto essere un modello di retta felicità femminile. La sera dello stesso giorno in cui partirono, recò una missiva di Mr. Elton a Mr. Woodhouse. Una missiva lunga, garbata, cerimoniosa, per dire coi migliori saluti di Mr. Elton, che intendeva lasciare Highbury la mattina seguente recandosi a Bath, dove, cedendo alle assistenze di alcuni amici, si era impegnato a passare alcune settimane ed era molto spiacente dell'impossibilità in cui si trovava, per varie circostanze di maltempo e di affari, di congedarsi personalmente da Mr. Woodhouse, delle cui amichevoli gentilezze egli avrebbe sempre serbato grati sensi, e se Mr. Woodhouse aveva ordini, sarebbe stato felice di servirlo. Fu un'assai piacevole sorpresa per Emma. L'assenza di Mr. Elton proprio in questo momento era esattamente quanto si poteva desiderare. Essa l'ammirava molto per averla combinata, sebbene non sapesse dargli molto credito per la maniera in cui era annunciata. Non si sarebbe potuto esprimere risentimento in forma più chiara che in una cortesia verso suo padre, dalla quale essa era così evidentemente esclusa. Essa non aveva neanche parte nei suoi convenevoli iniziali. Il nome di lei non veniva fatto. E in tutto ciò vera un cambiamento così impressionante e vera una tale sconsiderata solennità di commiato nelle sue dimostrazioni di gratitudine che dapprima essa pensò che non sarebbero potuti sfuggire al sospetto di suo padre. Ma gli sfuggirono. Suo padre rimase tutto preso dallo stupore d'un viaggio così improvviso e dai suoi timori che Mr. Elton non potesse giungerne sano e salvo alla fine, e non vide nulla di straordinario nel suo linguaggio. Fu una missiva molto utile, perché provvide loro fresca materia di pensiero e di conversazione per tutto il resto della loro serata solitaria. Mr. Woodhouse parlò delle sue apprensioni, ed Emma era d'umore così sollevato da poterle dissipare con tutta la sua abituale prontezza. Adesso risolvette di non tenere più all'oscuro Harriet. Aveva ragione di ritenerla quasi guarita della sua impredatura ed era desiderabile che essa avesse tutto il tempo possibile per superare l'altro suo guaio prima che tornasse quel signore. Perciò si recò il giorno immediatamente successivo da Mrs. Goddard per sottoporsi alla necessaria penitenza della comunicazione. E fu una penitenza severa. Dovette distruggere tutte le speranze che aveva così industriosamente alimentate, apparire nella parte antipatica di colei che era preferita e riconoscere che aveva giudicato male e si era sbagliata di grosso in tutte le sue idee in proposito, in tutte le sue osservazioni, le sue convinzioni, le sue profezie per le ultime 6 settimane. La confessione rinnovò completamente la sua prima vergogna e la vista delle lacrime di Harriet la fece pensare che non avrebbe più considerato se stessa con benevolenza. Harriet sopportò la notizia molto bene, senza biasimare nessuno, e dimostrando in tutto e per tutto tale franchezza d'indole e umile opinione di se stessa che dovevano in quel momento colpire molto favorevolmente l'amica. Emma era in uno stato d'animo tale da apprezzare al massimo la semplicità e la modestia, e tutto ciò che era amabile e che avrebbe dovuto attirare l'affetto sembrava trovarsi dalla parte di Harriet, non dalla sua. Harriet non riteneva di doversi lamentare di nulla. L'attaccamento d'un uomo come Mr. Elton sarebbe stata una distinzione troppo grande. Essa non avrebbe potuto mai meritare Mr. Elton, e soltanto un'amica così parziale e gentile come Miss Woodhouse l'avrebbe potuto ritenere possibile. Le sue lacrime caddero in abbondanza, ma il suo dolore era così ingenuo che nessuna dignità avrebbe potuto renderlo più rispettabile agli occhi di Emma. Ed essa ascoltò Harriet e tentò di consolarla con tutto il cuore e l'intelletto, davvero convinta per il momento che Harriet era, di loro due, la donna superiore, e che rassomigliarle avrebbe contribuito al suo proprio benessere e alla sua felicità più di quanto non potessero la genialità o l'intelligenza. Era un po' troppo tardi per lei accingersi ad essere ingenua e ignorante, ma lasciò Harriet sentendo confermata ogni sua anteriore risoluzione d'essere umile e circospetta e di reprimere la fantasia per tutto il resto della sua vita. Ora il suo secondo dovere, inferiore soltanto a quello verso suo padre, era di promuovere il benessere di Harriet e di cercare di dimostrarle il suo affetto con qualche metodo migliore che col tentare di combinarle un matrimonio. La fece venire a Arfield e le dette prova della più costante bontà, procurando di tenerla occupata e di divertirla, e coi libri e con la conversazione di farle passare di mente Mr. Elton. Sapeva che ci sarebbe voluto un po' di tempo perché ciò avvenisse completamente, e poteva supporre se stessa un giudice soltanto mediocre di tali faccende in generale e molto poco capace di simpatizzare con un attaccamento per Mr. Elton in particolare. Ma le sembrava ragionevole che all'età di Harriet e con la completa estinzione di ogni speranza, si sarebbe potuto ottenere tal progresso verso uno stato di calma per tempo del ritorno di Mr. Elton, da permettere loro di incontrarsi di nuovo negli ordinari rapporti di conoscenza senza alcun pericolo di tradire sentimenti o di inasprirli. Harriet riteneva Elton tutto perfetto e sosteneva che egli non aveva eguale per prestanza fisica o per bontà, e in verità si dimostrava più risolutamente innamorata di quanto Emma avesse previsto. Ma pure le appariva così naturale, così inevitabile, lottare contro un'inclinazione del genere non contraccambiata, che Emma non poteva comprendere che potesse continuare per molto tempo con la stessa forza. Se Mr. Elton al suo ritorno avesse reso la propria indifferenza così evidente e chiara come essa non poteva dubitare che si sarebbe dato gran cura di fare, non poteva immaginare che Harriet persistesse a porre la propria felicità nella vista o nel ricordo di lui. Il loro essere fissati, e fissati in modo così assoluto, nello stesso luogo, era un male per ciascuno, per tutte e tre. Nessuno di loro poteva allontanarsi o effettuare un sostanziale cambiamento d'ambiente. Dovevano seguitare a incontrarsi e adattarsi a questa situazione. Un'altra disgrazia per Harriet era il tono delle sue compagne da Mrs. Goddard. Poiché Mr. Elton era l'idolo di tutte le maestre e delle ragazze più grandi della scuola, e doveva essere solo Arfield che essa poteva aver modo di sentir discorrere di lui con moderazione capace di raffreddare o con verità capace di alienare. Dove era stata procurata la ferita, lì era il luogo più adatto per trovarne la cura, ed Emma sentiva che, finché non avesse veduto Harriet ristabilita, non avrebbe potuto sentire vera pace lei stessa. Mr. Frank Churchill non venne. Quando s'approssimò la data convenuta, i timori di Mrs. Weston furono giustificati dall'arrivo d'una lettera di scuse. Per il momento la sua presenza a Enscombe era necessaria, con sua grandissima mortificazione e rammarico, ma pure sperava fervidamente di venire a Randalls in un'epoca non lontana. Mrs. Weston ci rimase molto male, assai più male effettivamente di suo marito, sebbene la sua aspettativa di vedere il giovanotto fosse stata tanto più moderata. Ma un carattere ottimista, quantunque sempre si aspetti più bene di quanto non ne capiti, non sconta sempre le sue speranze con un abbattimento proporzionato. Ben presto sorvola sull'insuccesso presente e comincia a sperare di nuovo. Per una mezz'ora Mr. Weston fu sorpreso e dispiacente, ma poi cominciò ad accorgersi che la venuta di Frank 2 o 3 mesi più tardi era un progetto assai migliore. Migliore stagione, tempo più buono, e che allora egli avrebbe potuto, senza dubbio, rimanere con loro per un periodo notevolmente più lungo che se fosse venuto prima. Questi sentimenti non tardarono a ridargli il benessere, mentre Mrs. Weston, che aveva un'indole più apprensiva, non prevedeva altro che una ripetizione di scuse e di indugi, e con tutta la sua preoccupazione per quel che avrebbe sofferto suo marito, soffriva assai di più lei stessa. Emma in questo periodo non era in uno stato d'animo da curarsi realmente della mancata visita di Mr. Frank Churchill, se non in quanto ciò costituiva una delusione a Randalls. Il farne la conoscenza per il momento non aveva attrattiva per lei. Voleva piuttosto rimanere tranquilla e lontana da tentazioni. Ma pure, siccome era desiderabile che apparisse, in genere non diversa dal solito, procurò di manifestare tanto interesse nella circostanza e di prendere parte così viva alla delusione dei Weston, quali naturalmente potevano attendersi dalla loro amicizia. Fu lei la prima a dare notizia a Mr. Knightley e deplorò quanto era necessario, o forse anche più, poiché recitava una parte, la condotta dei Churchill nel tenere lontano Frank. Poi passò a dire un bel po' di più di quanto sentisse, del vantaggio di una tale aggiunta alla loro limitata società nel Surrey, del piacere di vedere qualcuno di nuovo, del giorno di gala che per tutta Highbury avrebbe causato la vista di lui, e terminando con altre critiche ai Churchill, si trovò direttamente in disaccordo con Mr. Knightley e con suo grande spasso s'accorse di prendere nella questione la parte opposta a quella che era il suo reale pensiero e di far uso degli argomenti di Mrs. Weston contro se stessa. «Probabilmente i Churchill sono in colpa», disse Mr. Knightley calmo calmo, «ma ritengo che egli potrebbe venire se volesse». «Non so perché diciate così. Lui desidera ardentemente di venire, ma suo zio e sua zia non vogliono privarsi della sua presenza». «Io non posso credere che non abbia la facoltà di venire, se insistesse. La cosa è troppo improbabile perché io la creda senza una prova». «Come siete strano! Che cosa ha fatto Mr. Frank Churchill perché voi lo supponiate un essere così snaturato?» «Non lo suppongo affatto un essere snaturato, quanto sospetto che possa aver appreso a essere al di sopra dei rapporti di parentela e a curarsi ben poco d'altro che del suo proprio piacere, a forza di vivere con gente che gliene ha sempre dato l'esempio. È un bel po' più naturale di quanto uno potrebbe desiderare che un giovanotto, educato da gente superba, amante del lusso ed egoista, diventi lui pure superbo, amante del lusso ed egoista. Se Frank Churchill avesse voluto vedere suo padre, avrebbe trovato il modo di farlo tra settembre e gennaio. Un uomo della sua età, quanto ha? 23 o 24 anni, non può non trovare il mezzo di fare una cosa come questa. È impossibile. È presto detto, e fate presto a sentire così voi, che siete stato sempre padrone dei vostri movimenti. Siete il peggior giudice del mondo, Mr. Knightley, delle difficoltà che vengono dal dipendere da altri. Voi non sapete che cosa sia aver degli umori da compiacere. Non è concepibile che un uomo di 23 o 24 anni non abbia tanta libertà di mente o di corpo. Denaro non può mancargli, tempo libero neppure. Sappiamo anzi che ha tanta abbondanza d'entrambi da essere lieto di disfarsene nei più oziosi ritrovi del regno. Non facciamo che sentire della sua presenza a questa o a quest'altra stazione di villeggiatura. Un po' di tempo fa era a Weymouth. Ciò dimostra che può lasciare i Churchill. Sì, talvolta può farlo. E questo capita ogni qualvolta gli pare che ne valga la pena, ogni qualvolta c'è una tentazione di piacere. È molto ingiusto giudicare dalla condotta d'alcuno senza una conoscenza della sua situazione. Nessuno che non sia vissuto dentro una famiglia può dire quali siano le difficoltà ad uno dei suoi membri. Dovremmo conoscere Enscombe e il carattere di Mrs. Churchill prima di presumere di accertare che cosa possa fare suo nipote. Qualche volta egli può essere capace di fare molto di più di quanto non possa qualche altra. C'è una cosa, Emma, che un uomo può fare sempre se vuole, ed è il suo dovere, non con manovre e astuzie, ma col vigore e la risoluzione. Il dovere di Frank Churchill è di aver questo riguardo per il padre. Le sue promesse e le sue missive dimostrano che egli se ne rende conto, ma se volesse potrebbe farlo. Un uomo diretto sentire direbbe subito, con semplicità e risolutezza, a Mr. Churchill: ogni sacrificio di mero piacere mi troverete sempre pronto a farlo ai vostri comodi, ma devo andare a vedere mio padre immediatamente. So che sentirebbe dolore se io mancassi a dargli questa prova di rispetto nella presente occasione, perciò partirò domani. Se egli le dicesse così subito, nel tono deciso che si addice a un uomo, non verrebbe fatta opposizione alla sua andata. No, disse Emma ridendo, ma forse potrebbe venire fatta al suo ritorno. Che linguaggio sarebbe quello per un giovanotto interamente dipendente? Soltanto voi, Mr. Knightley, potreste immaginarlo possibile, ma voi non avete idea di ciò che si richiede da una situazione diametralmente opposta alla vostra. Mr. Frank Churchill fare un tale discorso allo zio e alla zia che l'hanno allevato e devono provvedere per lui? Già stando in piedi nel mezzo della stanza, suppongo, e parlando il più forte possibile, come potete immaginare attuabile una tale condotta? Siatene pur certa, Emma, un uomo assennato non ci troverebbe difficoltà alcuna, si sentirebbe nel giusto. E la dichiarazione, fatta naturalmente come la farebbe un uomo di buon senso, come si deve, gli recherebbe più giovamento, facendolo salire nella stima e rafforzando l'attaccamento della gente da cui dipende, di quanto non possa fare tutta una serie di espedienti e di ripieghi. All'affetto si aggiungerebbe il rispetto. Essi sentirebbero di poter riporre in lui la loro fiducia, che il nipote che si comportasse bene col padre si comporterebbe bene con loro, che essi sanno non meno di lui, non meno bene di quanto debba saperlo tutto il mondo, che egli dovrebbe fare questa visita a suo padre. E mentre fanno un meschino uso del loro potere per ritardarla, in cuor loro non pensano di lui meglio perché si sottopone ai loro capricci. Ognuno sente rispetto per la retta condotta. Se egli agisse in questo modo, per principio, con coerenza e regolarità, le loro piccole menti si piegherebbero alla sua. Ne dubito. A voi piace assai piegare le piccole menti. Ma quando codeste piccole menti appartengono a gente ricca che ha l'autorità, credo che abbiano il vezzo di gonfiarsi finché diventano intrattabili come le grandi menti. Posso immaginarmi che se voi, quale siete, Mr. Knightley, foste trasportato e messo di colpo nella situazione di Mr. Frank Churchill, sareste capace di dire e di fare proprio quel che avete raccomandato per lui e potrebbe avere un ottimo effetto. I Churchill potrebbero non avere una parola da replicare, ma voi non avreste abitudini di obbedienza inveterata e di lunga deferenza da aspettare. A chi le ha può non riuscire tanto facile elevarsi di botto alla perfetta indipendenza e non tener conto di tutte le loro pretese alla gratitudine e al rispetto. Lui potrebbe avere un senso non meno forte di voi di ciò che sarebbe giusto, senza essere all'altezza d'agire in maniera conforme in certe determinate circostanze. Allora non si tratterebbe d'un senso così forte. Se mancasse di produrre uno sforzo conforme, non potrebbe essere una convinzione dello stesso grado. Oh, la differenza di situazione ed abitudine! Vorrei che cercaste di capire quello che può sentire un giovanotto amabile nell'opporsi direttamente a coloro che egli non ha fatto che venerare sempre da bambino e da adolescente. Il vostro amabile giovanotto è un giovanotto debolissimo, se questa è la prima occasione che gli si presenta di mandare ad effetto una risoluzione di agire rettamente contro la volontà altrui. A quest'ora avrebbe dovuto essere per lui un'abitudine quella di seguire la via del dovere, invece di consultare la convenienza. Posso giustificare i timori del fanciullo, non quelli dell'uomo. Giunto all'età della ragione, avrebbe dovuto svegliarsi e sbarazzarsi di quanto era indegno nella loro autorità. Avrebbe dovuto opporsi al primo tentativo da parte loro di fargli tenere il padre in poco conto. Se avesse cominciato come doveva, adesso non ci sarebbe stata alcuna difficoltà. «Non saremo mai d'accordo su di lui», esclamò Emma. Ma non v'è nulla di straordinario. Non penso affatto che egli sia un giovanotto debole. Sono sicura, anzi, che non lo è. Mr. Weston non sarebbe cieco davanti a una condotta insipiente, fosse pure in suo figlio, ma probabilmente egli ha un'indole più arrendevole, docile e condiscendente di quanto s'accorderebbe con la vostra idea della perfezione virile. Credo che sia così. E sebbene ciò possa precludergli certi vantaggi, gliene assicurerà molti altri. Sì, tutti i vantaggi di starsene seduto mentre dovrebbe muoversi e di condurre una vita di mero piacere ozioso e di immaginarsi estremamente abile a trovarvi scuse. Può mettersi a tavolino e scrivere una bella lettera fiorita piena di proteste e di falsità, e persuadersi d'aver azzeccato il miglior metodo del mondo per mantenere la pace in famiglia e impedire al padre d'avere alcun diritto di lamentarsi. Le sue lettere mi disgustano. I vostri sentimenti sono singolari. Quelle lettere sembrano soddisfare tutti gli altri. Sospetto che non soddisfino Mrs. Weston. Non possono soddisfare una donna di così buon senso e acuta sensibilità. Lei che si trova al posto d'una madre, ma non ha l'affetto d'una madre ad accecarla. È per via di lei che ha doppiamente dovuto riguardo a Randalls, ed essa deve sentire l'omissione doppiamente. Se lei fosse stata una persona importante in società, scommetto che sarebbe venuto, o fosse venuto o no, non avrebbe significato nulla. Potete pensare che la vostra amica rimanga dietro in questo genere di considerazioni? Supponete che non dica sovente tutto ciò a se stessa? No, Emma, il vostro amabile giovanotto può essere amabile solo in francese, non in inglese. Può essere molto aimable, avere maniere eccellenti ed essere assai piacevole, ma non può avere delicatezza inglese verso i sentimenti altrui. Non ha nulla di veramente aimable. Sembrate deciso a pensar male di lui. Io, ma che, rispose Mr. Knightley piuttosto urtato. Non voglio pensare male di lui. Sarei pronto, come ogni altro, a riconoscere i suoi meriti, ma non ne sento nominare alcuno, se non quelli che sono puramente personali, che gli è ben fatto e di bella presenza e a modi mellifluo e avvincente. Ebbene, non avesse altro a raccomandarlo, sarebbe un tesoro Highbury. Non capita spesso di vedere giovanotti ben educati e piacevoli.